rap futuristico. Oh, fibra! Ma quanti remix esistono di questa canzone? Vabbè, ci piace, così. Dai, facci sentire quello con Dante. Quello spacca, eh. Eccolo. Dai, fibra, caccia un po' di rappere, peppe, speppe. Tira su le mani per il remix. Tira su le mani per il remix. Tira su le mani per chi lo ascolta. Mistico, faccio il rap futuristico, artistico, autistico, alfistico, sperepepistico. Vedo facce serie come Lost, la serie infinita. Il rap è come il condom, ti salva la vita. Don saluta tiro mancino, nel rap sono capitano uncino. Don saluta Claudio Baglioni. Bella. Frankie hai energy dalla scena, si è ritirato come i maglioni. E tira su le mani per i tu fingers. Tira su le mani e grida two fingers. Tira su le mani e grida La cinese dove faccio massaggi e ascolto i two fingers e dice: mi piace glande, faccio massaggi anche dentro mutande se vuoi. Ti piace glande. La gag dell'incomprensione nel cinema usata da anni. Mi sono fatto una fiorentina di 600 grammi, no, di 22 anni. Tanti, sei la vergogna del rap. Quando mi dicono certe cose penso quello che penso un turco a pranzo. Penso kebab. Io non ho l'X fatto, torno a casa disfatto. Occhi incrociati, faccio due tiri e cado sul letto con gli occhi a X fatto. Two fingers. C'è la Z alla fine come l'alfabeto, come il suono della batteria che fa. O come Bombolo negli anni 80. Sono allergico alla teina e se vuoi venire a bere con me possiamo bere birra, vino, super alcolici, tutto, tutto. Tranne te, tranne te, tranne te, tranne te. Tranne te, tranne te, tranne te. Tranne te, tranne te, tranne te. Tranne te, tranne te. Rap futuristico, rap futuristico, plastico come porta a porta, in campo calcio da porta a porta, dice lei non mi importa, il mio rap è scorrevole come la porta, grida, se ci sei, siamo in volo come un G6, Dante Dante, comandante, cambio capitoli ogni istante, Asti Duncan, devastante, i testi mi titoli come le banche, mi piace fibra e Dante anche, cambio metrica, metricamente, sono avanti praticamente, stiamo tutti quanti facendo i soldi con il rap. Tranne te, tranne te, tranne te, tranne te. Tranne te, tranne te, tranne te. Tranne te, tranne te, tranne te. Tranne te, tranne te. Rap futuristico.